Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sono le 21 e un minuto di questo lunedì 8 luglio 2013. Buonasera da Agostino Spolaore e buonasera anche come al solito dal mio fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. E ben ritrovato anche a distanza di qualche giorno. Esattamente. Ci ritroviamo sempre qui, staccanovisti, come piace del sottoscritto. Ma perché? Perché bisogna far musica, ma anche bisogna fare conoscenza musicale, bisogna fare informazioni musicali. E questa sera c'è un grandissimo ospite che abbiamo veramente l'onore di avere al telefono. Lo presentiamo subito innanzitutto. Ciao Ezio Guaitamacchi. Buonasera. Buonasera Ezio. Troppo gentili. No, è vero, è la verità, sei un personaggio nel mondo della musica, la conoscenza che hai tu, veramente ci sono pochissime persone che ce l'hanno, insomma, questo te ne dà veramente adito, insomma. Grazie. Allora, prima di cominciare questa carrellata con Ezio, vi voglio ricordare le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. E poi ancora i nostri numeri telefonici, quello in studio, lo 049-875-6423, mentre per gli SMS vi ricordo il 346-2320-033. E poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto 1, l'altra è Blu Radio Veneto Rockwave, gestita da Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico e che quindi lo salutiamo caramente. E poi ancora vi ricordo un'altra cosa importantissima: alle 22.30 c'è un live in acustico qui con un cantautore russo che parla in inglese, quindi avremo Stefano Dainese che ci farà insomma la conoscenza, ci farà conoscere questo artista russo che si chiama Max Dimitriev. Però prima abbiamo questa lunga carrellata con Ezio Guaitamacchi, al cui cedo a Maurizio. Vai tu. Caro Ezio, buonasera e benvenuto al nostro programma. Io ti ho visto 2 mesi fa quando hai portato lo spettacolo itinerante per la presentazione di questo libro molto bello, 500 storie rock files che hanno fatto storia. Sì. È stata una cosa molto bella, vincente, che ha preso tutti quanti. Sei stato, posso dire, un po' sfigato, visto che era una giornata brutta, era la finale della Coppa dei Campioni. Ma solo quello e basta, il resto non conta. Vabbè. Però hanno vinto i più bravi. Ha vinto i più bravi, eravamo pochi ma fedeli secondo me. Libro molto interessante, cari ascoltatori, avvincente, una ottima lettura estiva, sia sotto l'ombrellone o all'ombra di qualche pino, e racconta 500 storie partendo dagli anni 50 fino al 2012, 500 storie di rock. E l'idea è quella che dietro ogni grande storia, come indiscutibilmente è stata quella del rock and roll, ci siano piccole storie. Di fatto questo accade anche, come dire, nelle vite di ciascuno di noi, no? Certo. Sono piccoli momenti importanti che hanno scandito le nostre vite e che, sommati tutti insieme, danno appunto poi come somma una grande storia. È stata la stessa cosa per il rock, non è stato, diciamo, facile selezionare questi momenti, queste storie, questi racconti, perché ho cercato di trovare un giusto compromesso tra quelle che realmente sono state dei momenti importanti, no? Per lo sviluppo di una musica che, come molti hanno detto, ha cambiato il mondo, e altre storie che invece sono sicuramente molto divertenti, talmente originali e, come posso dire, straordinarie da neanche forse il miglior sceneggiatore hollywoodiano sarebbe stato capace, no, di inventarsene. Quindi l'idea è stata proprio quella di trovare una formula di equilibrio tra i momenti chiave, che peraltro anch'essi, molti di loro sono delle storie fantastiche da tutti i punti di vista, sia appunto raccontare quelle vicende che fanno parte, no, un po' del mito del rock, no? Una volta negli anni 70 si celebrava il motto sesso, droga e rock and roll, no? Certo. E questa cosa, questo stile di vita fatto di eccessi, di una voglia di stare sempre con il pedale dell'acceleratore schiacciato al massimo sulla corsia di sorpasso, ha dato vita sicuramente a momenti straordinari dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista semplicemente del racconto, perché io credo che questo libro, anche paradossalmente lo dico, per uno che non è appassionato di rock potrebbe essere un modo per appassionarsi, per trovare delle curiosità e anche per trovare poi delle musiche da ascoltare, perché ad ogni racconto io ho abbinato come ideale colonna sonora una canzone. Certamente, è cosa bellissima questa, è estremamente interessante, e dobbiamo sottolineare questo, cari ascoltatori: un ottimo critico può essere anche un ottimo musicista. Ezio è un ottimo musicista, visto che quando ha portato lo spettacolo Itinerante per presentare il libro ha suonato una serie di chitarre, vero Ezio? Sì, perché vabbè, io ci scherzo, no, su questa cosa, perché io ho iniziato la mia passione per la musica, è iniziata sulle corde degli strumenti. Quando ero ragazzino io suonavo, e diciamo che la professione poi di giornalista, di critico e di storico è arrivata successivamente. Però c'è sempre, insomma, questa specie di polemica, no, di piccola competizione tra l'artista e il critico musicale. L'artista in genere, con un po' di supponenza, sostiene, rivolgendosi al critico, io posso fare quello che fai tu, cioè quindi elaborare l'analisi critica di un prodotto artistico, ma tu, critico musicale, non potrai mai fare quello che faccio io, cioè creare una canzone, interpretarla, cantare, suonare. Allora io, un po' per smitizzare, no, anche questa polemica, mi sostituisco anche al musicista e faccio vedere che invece i due ruoli potrebbero anche essere complementari. Sicuramente non è vera l'affermazione dell'uno, così come non è vera a volte l'affermazione un po' presuntuosa degli altri, cioè della categoria dei giornalisti musicali, che tendono così a volte a sbeffeggiare eccessivamente o ad analizzare in modo superficiale il prodotto artistico. Alla fine il critico musicale è senza l'artista non esisterebbe, perché che cavolo criticherebbe? Certo, chiaramente. Quindi, sì, ognuno, cioè, abbiamo bisogno gli uni degli altri, capito? È come il pesolino pagliaccio con l'anemone. Certo. Ecco, la vedo in questo modo più poetico che non come una vera e propria, a volte, rivalità o motivo di polemica. Ecco. Questo libro è diviso negli anni 50, gli anni 60, 70, 80, 90 fino al 2000, e chiaramente non si può ridurre in un'ora scarsa 555 pagine di vera musica rock, di storia della musica rock. Allora noi della redazione, caro Ezio, abbiamo deciso, se tu sei d'accordo, di fare un'altra puntata, quando sarà, per cercare di entrare ancora di più nel libro. Allora cominciamo con gli anni 50, con esattamente Los Angeles, California, 21 marzo del 1955. Che cosa successe 21 marzo del 55 a Los Angeles, California? Che film apparve sugli schermi? Ma questa non è un'intervista, questo è un quiz televisivo. Allora tu mi costringi, e ammetto, a prendere il libro. Davanti. Mi ricordo tutte le date a memoria e ti recito, hai capito? Ti diamo un aiuto noi, Ezio, American Graffiti. American Graffiti, quindi stiamo parlando, hai detto... Il film effettivamente era Il seme della violenza del 21 marzo del 55. Certo, ma quello, sapete, cioè, quello è molto importante. Eh sì, appunto, perché, per quello abbiamo cominciato da quello, allora, per quello è importante. È importante perché, importante per questo motivo, anche perché tra l'altro l'anno prossimo ricorrerebbe la data che adesso vi sto dicendo. Gli storici del rock si dividono, diciamo, su due scuole di pensiero per quello che è il momento zero, cioè l'inizio, quando è nato il rock and roll, no? Allora ci sono una serie di persone che sostengono che appunto l'anteprima del film Blackboard Jungle, cioè Il seme della violenza, quello di cui state parlando voi, cioè il 21 marzo del 1955, sia stato la nascita della rock and roll, perché quel film rappresentava lo spizzo, perché conteneva una canzone che era già stata pubblicata, ma però che ebbe successo come colonna sonora, che è la leggendaria Rock Around the Clock, che dopo sentiamo, ecco, mentre altri invece sostengono, e devo dire, tra cui il sottoscritto, che per quanto il mio parere sia irrilevante, però ve lo motivo, la nascita per me invece il 5 luglio del 1954, quindi quasi un anno prima rispetto alla data di cui parliamo, perché in quel giorno è il giorno in cui Elvis Presley registra il suo primo singolo, That's Alright, ed è secondo me una data assai più emblematica. Elvis che entra negli studi della Sun Records, cioè l'etichetta principale di quella grandissima stagione degli anni 50 del rock, capitanata da Sam Phillips, il quale proprio dietro ai cursori del mixer, mentre nella sua testa voleva fare incidere a Elvis un'altra canzone, sente nell'intervallo, no, tra una canzone e l'altra, Elvis che prova questo pezzo e rimane folgorato, decide di registrarlo, e sarà proprio il primo 45 giri della carriera artistica di Elvis Presley, cioè del re del rock. Ecco perché per me quella data è assai più emblematica rispetto peraltro al bellissimo film, assolutamente, come dire, leggendario, influentissimo, di Glenn con Glenn Ford come attore protagonista, che appunto in italiano verrà tradotto come titolo nel Il seme della violenza. Esattamente. Ora sentiamo Rock Around the Clock adesso con Be Halley the It's Comets, pezzo famosissimo, estremamente famoso, e dopo di seguito non sentiamo il pezzo che tu hai citato di Elvis, ma il pezzo dopo di Elvis, Don't Be Cruel, del 13 marzo del 55, perché c'è un aneddoto molto divertente su questo e poi spieghi chiaramente. E vai. Okay. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. It's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel, ooh, to a heart that's true. Don't be cruel, ooh, to a heart that's true. I don't want no other love, oh, baby, it's just you I'm thinking of. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Caro Ezio, la sottostoria, tutte pazze per Elvis, Jackson File, Florida, 13 maggio 1955. Sì, Elvis appunto ha già inciso da quasi un anno il brano a cui facevo riferimento prima, e il suo nome, la sua immagine si stanno già, come dire, propagando per tutta l'America. Lui davvero è la quintessenza di quella che sarà l'iconografia del rock and roll, cioè il ragazzo che ha il sex appeal e la carnalità di un afroamericano, ma anche, come dire, l'eleganza, il senso melodico della cultura nordamericana bianca. Certo. Lui è la sintesi perfetta delle due razze che in quegli anni in America sono ancora in grandissima difficoltà di convivenza, perché sono gli anni in cui l'integrazione non è ancora avvenuta, in cui ci sono la segregazione, soprattutto negli stati del sud, tra bianchi e neri. E Elvis riesce magicamente invece a condensare queste due culture, scavalcando le barriere razziali e essendo avanti di 20, 25, 30 anni, no, rispetto agli anni che sta vivendo. Questo suo sex appeal innato, devo dire, unito al fatto che era un ragazzo veramente bellissimo, provocano ovviamente delle reazioni emotive da parte delle ragazzine americane degli anni 50. Sono una generazione che all'epoca, anche oggi è difficile da pensare, però dovete immaginare che quella è la generazione del post seconda guerra mondiale, un boom economico nascente, una società che stava in completa evoluzione, e nasce questa categoria che oggi fa quasi sorridere, no? Quella dei teenager, cioè dei ragazzi che hanno un'età che negli Stati Uniti questo suffisso teen comprende quelli dai 13 ai 19, cioè quelli dai 13 ai 19 anni, che oggi sono bambini, però all'epoca erano ragazzi che nelle generazioni precedenti, se eri un maschio già lavoravi, se eri una femmina probabilmente già ti sposavi e cominciavi a far figli. Certo. Ecco che in quegli anni nasce questa categoria, che è una categoria privilegiata, che invece che appunto lavorare e far figli può accostarsi al mondo degli studi, e quindi in una lunghissima area di parcheggio che però gli dà delle prospettive di vita diverse. Quali fossero non lo sapevano, sicuramente sapevano che non erano quelle dei loro genitori. E chi ci guadagnava in tutta questa faccenda era il colonnello Parker, che si fregava le mani per l'incasso di Elvis, e questo è il primo dei tantissimi incassi che il colonnello Parker fece. Sì, c'è da dire che appunto Elvis rappresentava la punta più avanzata, più eccitante, più d'appeal del rock and roll, tanto che nei suoi concerti cominciava appunto a scatenare questa sorta di come dire, reazione di massa da parte soprattutto delle fanciulle. Se poi, come è capitato quella sera del 13 maggio del 55 a Jacksonville in Florida, lui alla fine del concerto dice: ragazzi, ci vediamo tutte nel backstage, questo fu una specie di scintilla che accese questa miccia di ragazzine in preda appunto a calori eccessivi, che si scaraventarono tutte quante nel retropalco cercando di entrare nei camerini. Alcune di loro ci riuscirono, sì, addirittura entrando dalla finestra e cercando di braccare il povero Elvis, che erano tempi completamente diversi, cioè anche per una, diciamo, pop star, superstar come lui, non c'erano ancora le guardie del corpo, tutti gli apparati a cui siamo abituati oggi, per cui alla fine riuscirono proprio quasi a spogliarlo, a prendere brandelli di camicie e mutande, quasi come fossero appunto dei grandi trofei. Cioè, come dicevi tu, chi ci guadagnava era il manager, il mitico colonnello Parker. Esatto, questo mitico pseudo colonnello Parker, che fu vicino a Elvis per gran parte della sua carriera, e che come tutti gli impresari, soprattutto dell'epoca, riusciva a capitalizzare in maniera magari non troppo cristallina i proventi che venivano da tutti questi personaggi. Benissimo, adesso abbiamo parlato degli anni 50 velocemente, adesso facciamo un piccolo salto. 15 maggio 1965, una poesia nei jukebox. Ti ricordi? Ma sicuramente. Questo me lo ricordo molto bene, sì, perché questo mi fu anche raccontato da personaggi che di quella vicenda ne furono in qualche modo protagonisti. Mi riferisco ad esempio a Roger McGuinn, che era un membro fondatore e uno dei personaggi principali di questa band di folk rock californiana chiamata The Byrds. E che cosa accadde? Che i Byrds in quella primavera del 1965 riuscirono ad accaparrarsi una canzone che Bob Dylan aveva inciso in maniera molto diversa, cioè con gli strumenti acustici, con un ritmo diverso, un ritmo in tre quarti, e sostanzialmente la canzone fu completamente riarrangiata, fu anche tagliata. Sì, da David Crosby che la tagliò. Sì, furono tagliate la maggior parte delle strofe, di fatto rimasero i ritornelli e una sola strofa, ma soprattutto fu arrangiata con questa commissione di strumenti elettrici e strumenti acustici, ma dando vita a questa formula ibrida chiamata folk rock. Certo. Ma Ezio, tu spieghi nel libro, benissimo, fra le 500 storie, che sono solo Roger McGuinn praticamente. Sì, perché tanto per sfatare i miti, no, che ogni tanto si dice come si suonava bene negli anni 60. Sì, si suonava bene, però i Byrds non erano così bravi, cantavano molto bene ma non suonavano altrettanto bene, per cui praticamente noi ci riferiamo alla canzone, magari non l'abbiamo citata, si chiama Mr. Adesso la sentiamo fra qualche secondo. Mr. Tambourine Man nella versione dei Byrds ha questo riff di chitarra 12 corde Rickenbacker suonato da Roger McGuinn, cantato da Roger McGuinn, Gene Clark e David Crosby, cioè i Byrds, ma fu suonato da questo gruppo di musicisti che in gergo li chiamavano The Wrecking Crew, cioè quelli che la truppa che spezzava le navi avversarie, perché erano talmente bravi, ne cito uno su tutti, poi diventa una leggenda del rock, si chiamava Leon Russell, erano talmente bravi che erano i session man più acclamati di Los Angeles. Che cosa successe? Che questa versione di Mr. Tambourine Man finì dritta dritta al primo posto delle classifiche, e la frase che tu hai citato all'inizio, la poesia nei jukebox d'America, fu una frase del poeta beat Allen Ginsberg, grande amico di Bob Dylan, che proprio per sottolineare il fatto che la poetica di Dylan finalmente veniva riconosciuta a livello nazionale e internazionale, sottolineò appunto il grande successo commerciale della canzone interpretata dai Byrds con questa frase: finalmente la nostra poesia è nei jukebox. Eccola. Swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy yet. Blue Time Live. Live. Cari ascoltatori, stiamo piacevolmente conversando con Ezio Guattamacchi in occasione della presentazione di questo nuovo suo libro 500 storie rock files che hanno fatto storia, e lui sta raccontando le 500, no, chiaramente non le 500 storie, però a momenti, a spezzoni, la storia del rock in modo incredibilmente positivo e bellissimo. E poi ha parlato di questo riff che rimarrà nella storia, che è rimasto nella storia, caro Ezio. Beh, direi proprio di sì, anche perché magari non tutti lo sanno, però l'anno prima dell'incisione di Mr. Tambourine Man accade un altro fatto straordinario nella storia del rock, cioè i Beatles sbarcano negli Stati Uniti. È vero. E suonano allo show di Ed Sullivan, e quella partecipazione influenza veramente milioni di giovani americani e migliaia di ragazzi che in quel momento rimangono stregati non solo dal fascino dei personaggi Beatles, ma anche dalla loro musica, e decidono di mettere su un gruppo. Beh, George Harrison suonava questa strana chitarra che qualcuno non riusciva a capire, perché apparentemente sembrava una sei corde, perché nella paletta i piroli delle corde erano solo sei. In realtà, vedendola da dietro, si vedeva che era una 12 corde, uno strumento che in America era stato reso popolare nella versione acustica da Pete Seeger, ma nessuno l'aveva mai visto in versione elettrica. Ed era uno strumento americano, cioè la Rickenbacker è uno dei primi costruttori di chitarre elettriche. Beh, da quell'apparizione quello strumento diventa ambitissimo dai giovani, e uno dei primi a suonarlo fu appunto Roger McGuinn dei Byrds, che nel riffettino che apre e chiude la loro nuova versione di Mr. Tambourine Man dà appunto questo suono particolare, che poi fu ribattezzato Jingle Jangle, che non vuol dire nulla, però è semplicemente un suono onomatopeico per sottolineare quel suono molto secco, molto quasi da campana, no? Esattamente. Che aveva quella chitarra bellissima, che ancora oggi evoca appunto quel tipo di arrangiamento, quel tipo di canzoni, quel tipo di... Allora, adesso non so se sia stato favorito da questo, ma sicuramente qualcosa l'ha favorito, perché Dylan, 15 giugno del 65, grazie anche al grande successo di Mr. Tambourine Man, attacca la spina, non è così? Beh, questo è forse il momento, direi, forse più importante della storia del rock, in quanto la canzone poi che è legata a questa decisione di Bob Dylan cambia veramente la storia del rock. Che cosa era successo? Che Bob Dylan, quello che in America fu definito in quei tempi la voce di una generazione, cioè il giovane artista che realmente riesce a dare un senso a una parola che oggi è usata in maniera anche forse errata, cioè al termine cantautore. Prima di Bob Dylan esistevano i folk singer, ma non esistevano i cantautori, cioè coloro che scrivevano e cantavano le loro canzoni. Bob Dylan è di fatto lo stereotipo, il paradigma del cantautore, ed era un ragazzo di 22 anni, in pieno folk revival, che scrive in una maniera completamente diversa a quella a cui erano abituati fino ad allora, una maniera diretta, una maniera metaforica, una maniera spesso allegorica, con citazioni bibliche, con doppi livelli di lettura, però riusciva a cogliere esattamente come dire, il pensiero, lo spirito, le emozioni, le sensazioni, i desideri delle generazioni, della sua generazione, di quelle a cui lui si rivolgeva. Fu folgorante da quel punto di vista lì, e fu come dire, era la punta di diamante di questo movimento dei folk revivalist, diciamo, che erano molto impegnati politicamente, molto intransigenti, molto tradizionalisti. Loro si scagliavano, erano, diciamo, la parte razionale, politica, impegnata, che arrivò dopo l'onda travolgente del rock and roll, che era fatta invece da giovinotti tipo Elvis, di bella presenza, molto sexy, ma non molto magari colti, non molto intelligenti, soprattutto a cui non gliene fregava nulla di impegno politico, di impegno sociale. Loro erano lì per stare sul palco, divertire, far divertire, magari far, come dire, no, far venire delle pulsioni anche sessuali al loro pubblico. Bene, il Festivalio era l'esatto opposto e Dylan era la punta di diamante. Però cosa successe? Che quando i Beatles arrivarono in America e Dylan vide lo straordinario successo che i Beatles stavano riscuotendo, lui, che era impegnato ma non era stupido, decise a un certo punto che il suo pubblico, quello appunto dei giovani che lo seguivano al Festival di Newport, che era la manifestazione più importante da quel punto di vista lì, beh, non gli era più sufficiente. Anche lui voleva, come dire, quelle schiere di ragazzine e di ragazzi che impazzivano un po' come succedeva a Elvis, però con una musica, quella dei Beatles, che per l'americano medio era considerata molto più sciccosa, perché veniva dall'Inghilterra, loro erano proprio... Era sempre una colonia, promuovi dire. Esatto, e poi loro erano appunto più eleganti, più fighi, avevano l'accento inglese, insomma... Per cui Dylan cosa fece a un certo punto? Anche a seguito, devo dire, di questo successo straordinario del pezzo, che della sua canzone nella versione folk rock dei Birds, decise che era anche per lui il momento di, come dire, accantonare, tra virgolette, il folk e gli strumenti acustici e imbracciare gli strumenti elettrici. Esattamente, di attaccare la spina. Il risultato è questo album che si chiama Highway 61 Revisited, che peraltro nella canzone che gli dà il titolo è proprio una canzone di impegno politico, di rivendicazione, di protesta lungo questa autostrada in cui la gente protestava perché non aveva più casa, venivano spazzati via i loro appezzamenti di terreno. E in questo disco compare questo brano che fa storia, diventerà per qualcuno la canzone più importante della storia del rock. La canzone si chiama Like a Rolling Stone, dura 6 minuti e 22 secondi e anche qua c'è l'introduzione di un aspetto strumentale che fa epoca, cioè il riff in questo caso non è più quello di una chitarra ma è quello di una tastiera, per la precisione di un organo elettronico, l'organo Hammond, e questa cosa anche ha dietro come dire, una serie infinita di aneddoti, perché chi lo suona, questo Al Kooper, diventerà non solo uno dei più grandi produttori della storia del rock, l'inventore di una band chiamata Blood, Sweat and Tears, ma proprio, come dire, sdoganerà definitivamente la tastiera, in particolare l'organo elettronico, come strumento, uno degli strumenti principe del rock, scalzando o comunque affiancandosi alla inscalzabile chitarra elettrica. Esattamente, Like a Rolling Stone, Dylan. Time you dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum. say, do you want to make a deal? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel? Gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Now you got no secrets to conceal. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sono le 21:40. Ridendo e scherzando, ma non troppo, insomma, sono già trascorsi 40 minuti in compagnia di questo grande personaggio per quanto riguarda la musica, la conoscenza, la cultura della nostra cara amata musica. Ezio Waitamaki ci sta facendo compagnia qui, telefonicamente parlando, per la presentazione del suo libro che si chiama Rock Files 500 Storie. Stiamo cercando, insomma, di carpirne qualche segreto, e anche se poi lui ci ha promesso che verrà a trovarci qui in radio, faremo una bella seratona, vero Ezio, che ci hai promesso? Ve l'ho promesso, certamente che ve l'ho promesso. Ma come non si può tradire una promessa? Veramente, sarei veramente un infame. Porto anche le chitarre e Brunella Boschetti. Ecco, esatto, che la vocalist bravissima che ha partecipato al tuo spettacolo. C'è anche il pittore, altro artista bravissimo. Il pittore per radio non viene. Beh, chiaramente per radio non viene, però dipinge, può dipingere per gli astanti, chiaramente. Guarda che ti abbiamo registrato, quindi adesso non scappi più. Certo. Noi ti ringraziamo che stai facendo la storia del rock e la storia anche per noi, chiaramente, una cosa meravigliosa, bellissima. Quindi comprate questo libro, cari ascoltatori, ne vale assolutamente la pena. Allora, 18 febbraio 1966, Ezio, Good Vibration, le buone vibrazioni. Le buone vibrazioni, secondo Brian Wilson, erano buone vibrazioni. Sì, perché è anche quella, insomma, avevamo ascoltato, voi avete scelto canzoni che veramente sono state la colonna sonora non solo di quel decennio straordinario per l'arte, per la cultura, per i cambiamenti sociali che sono stati gli anni 60, ma sono canzoni che hanno fatto veramente parte del meglio, di una delle forme di espressione artistica più elevate che in campo della musica popolare l'essere umano ha prodotto. Guardate, lo dico senza retorica ma con grande convinzione, il rock, e deve essere affermato più che mai oggi a quasi 60 anni di distanza dalla sua nascita, è stata una delle forme d'arte veramente più elevate che gli esseri umani hanno potuto godere, di cui noi ancora siamo fortunati, perché alcuni di questi grandi protagonisti sono in piena attività nonostante gli anni, no? Questo weekend i Rolling Stones hanno suonato a Hyde Park, certo, come fecero, no, nel 1969, stupendo tutti. Insomma, chi ha la fortuna di vedersi questi artisti ancora in vita, no? In ottobre, in novembre a Milano ci saranno 4 concerti in teatro di Bob Dylan, che credo vada in giro anche per l'Italia, anche qui da noi, anche a Padova. Ecco, anche a Padova avete appunto la possibilità di vedere anche i Water Boys, tra parentesi, capito, però voglio dire, vedere Steve Dylan, sì, certo, Rolling Stones, vedere Bruce Springsteen, o, insomma, vuol dire, insomma, per me è come vedere Michelangelo che sta dipingendo la Cappella Sistina. Cioè, sono delle cose che rimarranno, cioè nell'anno 3000 si parlerà di queste musiche, di questi artisti, come oggi noi parliamo dei grandi musicisti classici della storia, dei grandi pittori, dei grandi architetti, dei grandi scultori, cioè geni assoluti degli esseri umani. Sicuramente in questa categoria fa parte Brian Wilson, uno dei tre fratelli Wilson, che negli anni 60 danno vita a questo gruppo chiamato The Beach Boys. Erano i rivali dei Beatles, molti se lo sono dimenticato, ma in America, quando i Beatles sbarcano, come dicevo prima, a New York, e vanno nello show di Ed Sullivan, in quegli anni la band numero uno per gli americani è questo quintetto californiano chiamato The Beach Boys, cioè i ragazzi da spiaggia. Loro avevano, come dire, cantavano proprio della California del Southern, della California del Sud, delle spiagge, del sole, delle palme, di questo nuovo sport che si chiamava surf, di cui loro peraltro magnificavano le gesta ma non erano capaci di farlo, ma erano bravissimi. Soprattutto era bravissimo Brian Wilson, che dei tre fratelli era il compositore dei brani, l'ideatore, l'inventore di un suono eccezionale. E con i Beatles si scatenò una specie di vera e propria competizione artistica a colpi di invenzioni reciproche. E questo Good Vibrations in realtà doveva far parte di un disco chiamato Smile, che poi in realtà non uscirà, perché Brian Wilson sentì quasi in anteprima il capolavoro dei Beatles chiamato Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disco talmente straordinario, talmente avanti, talmente rivoluzionario, che in qualche modo fregò l'idea di Brian Wilson. Ma se noi ascoltiamo, come stiamo per fare, credo, il pezzo che di Smile doveva essere il pezzo portante, cioè questo Good Vibrations, queste buone vibrazioni che partono e si diffondevano in questa nuova controcultura che era all'epoca, partiva proprio dalla California per propagarsi in tutto il resto del mondo, capiamo non solo la bellezza di quella rivoluzione artistica e culturale, ma anche la grandezza musicale dei Beach Boys e di Brian Wilson in particolare. Certamente. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Oh. hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoci qua. Saltiamo leggermente. Arriviamo al 3 marzo 1966. Ritorniamo in Inghilterra, sì, per modo di dire, perché la registrazione Hollywood, California, 3 marzo 1966, parliamo di Paint It Black dei Rolling Stones, l'album più amato dai fan di Brian Jones, me compreso. È così? Sì, Aftermath stai dicendo, perché Paint It Black è la canzone. Sì, Paint It Black è la canzone, sì, Aftermath è l'album, esattamente. Aftermath è l'album, e sì, vuol dire che siete tutti un po' orfani di Brian Jones, e fai bene a ricordarlo, perché io... Nel mio libro precedente, che era dedicato, si chiamava Delitti Rock, ed era dedicato appunto alla... Che abbiamo presentato all'epoca. Esatto, col tentativo di, insomma, di fare luce sui vari, certo, misteri, le morti misteriose, della, dedicavo un capitolo a questa vicenda ancora poco chiara e tutto sommato irrisolta della morte di Brian Jones, che, non dimentichiamolo, fu colui che inventò questa straordinaria band chiamata Rolling Stones, la inventò dal punto di vista artistico, cioè fu lui a coniare questa formidabile miscela di rock e blues, e fu lui addirittura a dare il nome al gruppo, mutuandolo dal titolo del brano di uno dei suoi idoli, il bluesman Muddy Waters. E così nel marzo del 66 avviene che negli studi della RCA proprio a Hollywood, 63-63, esatto, cominciano a registrare quello che appunto diventerà Aftermath, cioè uno dei dischi più amati dai fan dei Rolling Stones, soprattutto di quelli che vedevano appunto in Brian Jones il, come dire, la mente ispiratrice del gruppo. Devo dire che per molti di questa delle nostre generazioni più recenti, i Rolling Stones vivono sul dualismo, no? Mick Jagger, Keith Richards. Però nella prima fase, finché Brian fu in vita, i fan degli Stones, io prego i giovani ascoltatori di rivolgersi alle loro mamme o alle loro nonne, cioè a quelli e a quelle che chiamano gli Stones i Rolling, perché quella è la differenza, si capisce subito se uno ha più di 60 anni, se i Rolling Stones li chiama i Rolling a più di 60 anni, e sicuramente le nonne di oggi si combattevano, no, tra, come dire, il sex appeal selvaggio molto ostentato di Mick Jagger e invece questo altro fascino molto particolare di questo ragazzo biondo, un po' problematico, apparentemente timido, molto, come dire, una sorta di hippie gentiluomo, che era Brian Jones, che fu il primo anche ad accostarsi alla cultura psichedelica, alle nuove frontiere della percezione, anche ai nuovi suoni, no? Tanto è vero che in Painted Black lui imbracciò questo sitar, lo strumento indiano che anche George Harrison aveva, come dire, cominciato a suonicchiare, perché dall'India, dal Marocco, da queste altre zone del pianeta da cui arrivavano suoni, culture, profumi e anche, se vogliamo, sostanze che facevano sognare, attraevano molto l'attenzione dei giovani rocker dell'epoca. E in questo disco comunque ci sono, non c'è solo Painted Black, ma c'è anche Lady Jane, dove Brian Jones suona il dulcimer, piuttosto che Under My Thumb o Out of Time, cioè sono pezzi che hanno fatto veramente la storia della prima parte dei Rolling Stones, ripeto, per alcuni cultori la parte tutto sommato ancora oggi più apprezzata, non dico più amata, perché poi il duopolio Jagger Richards sforna quello che Brian Jones non è mai riuscito a fare, cioè canzoni folgoranti con riff di chitarra assolutamente, come dire, killer, che ancora oggi inchiodano gente di qualsiasi età alla sedia, oppure la fanno schizzare, la fanno ballare. L'ascoltiamo. Ok. Painted Black? Yes. Oh, Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Per noi di una certa generazione, in Italia venne tradotto come Tutto Nero di Caterina Caselli. Questo testo è stato usato anche, non so se ve lo ricordate, in un bellissimo film di Gabriele Salvatores che si chiamava Tournée, inizia proprio con questa scena di Diego Abbatantuono che presenta un suo amico che deve fare un provino, che poi nel film è Fabrizio Bentivoglio, al regista, e gli recita appunto il testo di Painting Black, e il regista che rimane così, cos'è questo Baudelaire, è Rimbaud, uno di poi, l'altro no, e poi inizia il film. Quindi la canzone comunque indiscutibilmente ha fatto storia, Caterina Caselli o meno. Sì, indubbiamente sì. A proposito di nero, cosa ti dice Vecchio Caro Funebre Pontiac, 3 marzo 1966? Mi fa venire in mente una leggenda del rock che si chiama Neil Young, che tra pochi giorni sarà nuovamente in Italia per una serie di concerti. In realtà pare che lui all'epoca, no, che hai citato tu, girasse invece che con una macchina normale su questo Vecchio Caro Funebre. Esattamente. E fu avvistato proprio sul Sunset Boulevard da un gruppo di amici capitanati da Steven Stills, un musicista americano che proprio con il Young dà vita a un sodalizio turbinoso, no? Turbolento. È molto anche pieno di problematiche, sì, esatto. Però che dà origine a questa band chiamata Buffalo Springfield e poi successivamente a Crosby, Stills, Nash & Young e a tutte le diramazioni di quelli che in America sono chiamati proprio i nuovi Beatles o i Beatles americani, il primo gruppo a usare invece che un nome di fantasia i propri cognomi, il primo gruppo della storia a portare il rock negli stadi. 1974 Crosby, Stills, Nash & Young erano talmente popolari, amati e riveriti da fare una tournée negli stadi che si concluse con il leggendario concerto allo stadio di Wembley, che verrà, notizia di questi giorni, stampato e pubblicato anche su DVD per tutti gli appassionati. Ottima, è una cosa molto bella. Sentiamolo questo pezzo dei Buffalo Springfield, 5-3 marzo 1966, For What It's Worth, pezzo meraviglioso come tutta la musica dei Buffalo. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. We better stop. Children, what's that sound? Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Caro Ezio, abbiamo finito purtroppo, ma solo la prima puntata. Ci hai promesso che questa è la prima puntata. Direi, facciamo una... Ma questa è la prima puntata telefonica. La prima puntata telefonica. Telefonica, quella fisica invece... quella fisica è... sai. Dovete sapere comunque Rock Files, che è il titolo di questo libro, che ha come sottotitolo 500 storie che hanno fatto storia. Però il brand Rock Files è il titolo di un programma radiofonico che io conduco da più di 7 anni. Esatto, sì. E che ha varie declinazioni, tra cui quella anche di questi piccoli racconti, come sono stati raccolti nel libro, che vengono distribuiti a mo' di pillola nel palinsesto di questa radio che si chiama Life Gate e che ha come scopo, diciamo, una miglior qualità della vita a partire anche dagli ascolti musicali. Per cui è proprio, come dire, la dimensione radiofonica per il concept Rock Files è la condizione ideale. Io vi prometto che vengo a trovarvi con chitarre e brunelle. Certo. Sarete tutti felici, però ci vorrei che ci fosse la partecipazione dei vostri ascoltatori quando io vengo, quindi troviamo un sistema per interagire con loro. Certamente. Okay? Va bene, promesso. Va bene. Ezio, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità innanzitutto, perché insomma ci ha fatto molto piacere averti qui al telefono. Poi prossimamente abbiamo sentito che verrai a trovarci. Prima però di salutarci, presentiamo l'ultima canzone di un gruppo che non ha bisogno di tante presentazioni, però comunque vogliamo sapere le tue chicche, le tue notizie su quest'album Sgt. Pepper dei Beatles. Perché basta concerti, 29 agosto 1966. Sì, perché guarda, hanno scritto i libri e fatto i documentari. Basti però sapere appunto quello che io ho usato come titolo, cioè a un certo punto i Beatles sono talmente popolari, anche amati e riveriti, che quando suonano si trovano di fronte anche negli stadi da baseball americani decine di migliaia di persone urlanti, e all'epoca i sistemi di amplificazione non erano quelli di oggi, addirittura non esistevano i monitor, quelli che volgarmente si chiamano le spie, cioè quelli piccoli amplificatori attraverso i quali il musicista si può sentire, no? Lì praticamente tutto il suono finiva in platea, loro non sentivano quasi nulla e la loro musica era quasi del tutto offuscata dalle urla di eccitazione dei loro fan. Per cui a un certo punto, dopo più di 1000 concerti in 5 anni circa, quindi una media sbalorditiva, loro decidono di appendere le chitarre al chiodo, no? Di dire ok, non andiamo più in tournée, anche perché Paul McCartney vide una cosa che gli fece scattare un'idea, cioè vide che Elvis, in quel periodo in cui si era anche lui mezzo ritirato, aveva mandato in tour la sua Cadillac tempestata d'oro. Certo. Per cui disse, ma se Elvis manda in tournée la sua Cadillac, noi potremmo mandare in tournée un nostro disco. Cioè l'idea di fare un disco talmente complesso, per gli standard dell'epoca ovviamente, da portare su un palcoscenico, che sarebbe stato impensabile. Ecco perché tra le varie cose anche tutte le innovazioni tecniche che ci sono in questo album leggendario sono una caratteristica che l'ha reso anche tale. Certamente è un disco di straordinaria importanza perché è un concept artistico, addirittura anche qua l'influenza della psichedelia, di questa nuova cultura, delle filosofie orientali che arrivavano in Occidente. Insomma, i Beatles furono bravissimi, addirittura arrivarono prima dei californiani stessi. Pensate che il primo festival di rock, quello di Monterey, accade a metà del giugno del 67 e il primo giugno del 67 invece viene proprio pubblicato il disco Sgt. Pepper, con un nome che era un alter ego, cioè così come loro videro in California questi nomi stravaganti, addirittura quasi per nascondersi i Beatles si inventarono questa banda dei cuori solitari del Sgt. Pepper, no? Un alter ego, loro vestiti con questi alti uniformi che poi sono diventati un'icona anche questo della storia del rock, però che all'epoca erano assolutamente stravaganti, diverse, circondati da queste sagome di personaggi famosi o famigerati che per loro erano il icone del secolo passato. Ecco, un disco che comunque vale sempre la pena di ascoltare, riascoltare, specialmente nella traccia finale, è una delle pochissime canzoni veramente scritta a quattro mani da John Lennon e Paul McCartney, che si chiama A Day in the Life. Noi sentiamo però la title track. Ciao, grazie Ezio. Ciao, grazie a voi, buona estate a voi. Anche a te. E ci sentiamo per la seconda puntata, ok? Va bene, ciao. Ciao, ciao. Ciao Ezio, ciao. Ciao. Eccoci qua, abbiamo finito. Maurizio. Abbiamo finito questa bellissima, questa grande storia del rock, prima puntata con Ezio. Ezio è un critico musicale e un conduttore straordinario, ha spiegato, ma dovete leggere questo libro di Ezio Guatamacchi, 500 storie che hanno fatto la storia, Rock Files, edito dall'Arcana Editrice.